Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. ...1959, Cannes. È in corso la 12ª edizione del Festival Internazionale del Cinema. Alla ribalta di un'edizione particolarmente ricca salgono due film francesi. Non è il solito sciovinismo transalpino a decretarne il successo. Sono due opere che rivoluzioneranno il cinema francese, ma non solo. Segneranno un confine netto tra il prima e il dopo e determineranno la nascita di un modo di intendere l'arte giovane, fresco, vitale. Un processo di rinnovamento, insomma, che si estenderà all'intera società, dando un contributo determinante per la nascita di quei movimenti giovanili destinati a esplodere una decina d'anni dopo. Il primo di questi titoli ve lo riveliamo subito, perché non è di questo che andremo a parlare. Si tratta di Fino all'ultimo respiro, film chiave per il cinema francese diretto da Jean-Luc Godard e interpretato da uno straordinario Jean-Paul Belmondo. Il dolore è idiota. Io scelgo il nulla. Non è meglio. Ma il dolore è un compromesso. O tutto o niente. È da poco che lo so. Fino all'ultimo respiro, in quel 1959, è uno dei capostipiti di un movimento cinematografico fondamentale, la Nouvelle Vague. Prima di scoprire il secondo titolo e i nostri personaggi di oggi, facciamo una piccola digressione. Capiamo insieme qualcosa in più della Francia di quegli anni e di un movimento di rottura come la Nouvelle Vague. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Francia vive un periodo storico travagliato. Nel 1946 nasce la Quarta Repubblica, retta da un sistema di governo parlamentare. Le scelte francesi in politica estera in questo periodo fanno discutere. Prima l'appoggio incondizionato al neonato Stato di Israele, poi i tentativi di resistere al processo di decolonizzazione, portando indietro le lancette della storia. In Indocina, in Algeria, in Egitto, la Francia si impegna in sanguinose e deleterie guerre per conservare la propria supremazia nelle regioni coloniali. La crisi in Egitto, in particolare, scoppiata in seguito alla nazionalizzazione del canale di Suez, operata dal premier egiziano Nasser, porta a una crescente tensione nei rapporti con gli Stati Uniti di Eisenhower. Gli States intimano a Gran Bretagna e Francia di ritirarsi dalla nazione egiziana, generando frustrazione e risentimento nell'opinione pubblica francese. Ordino l'immediato cessate il fuoco in Egitto per quanto riguarda le operazioni militari condotte da Gran Bretagna, Francia e Israele. Altrimenti saremo costretti a prendere gravi provvedimenti. Anche nella regione algerina i francesi non riescono a opporsi alla rivolta del Fronte di Liberazione Popolare. Nonostante sanguinose repressioni, nel 1962 per lo Stato nordafricano arriverà l'indipendenza. Io, Ben Kedda, do notizia al popolo algerino che è stato firmato nella notte un cessate il fuoco con l'esercito francese. La nostra liberazione è finalmente compiuta. Questa difficile situazione internazionale, che mal si sposa con il proverbiale orgoglio francese, si traduce in un irrigidimento in politica interna. La società svolta a destra e nel 1958 si arriva alla proclamazione della Quinta Repubblica, con il presidenzialismo ad elezione diretta da parte dei cittadini, che premia subito il promotore di questa svolta, il generale Charles de Gaulle. Lo Stato sarebbe umiliato dall'oltraggio che gli viene fatto e dalle minacce cui è sottoposto, dopo le quali la Francia non sarebbe più che un povero giocattolo abbandonato nel mare degli avvenimenti. Una volta di più, mi appello a tutti i francesi, dovunque essi siano, di raccogliersi intorno alla Francia. Viva la Repubblica! Viva la Francia! La società francese, insomma, negli anni 50 si ingessa, si irrigidisce e in questo modo prepara per contrasto la reazione giovanile e studentesca della fine degli anni 60. Intanto, le principali forme d'espressione artistica sembrano assecondare questa svolta conservatrice. Per quanto riguarda il cinema, la Francia di questi anni produce grande quantità di film che manifestano una tendenza idealistica e moralizzante e fanno di questo cinema qualcosa di totalmente distaccato dalla realtà quotidiana delle strade francesi. Un cinema che guarda solo ai propri compiti ufficiali e trascura il ribollire di una giovane generazione di cineasti e di artisti che vorrebbero invece utilizzare il mezzo per esprimere se stessi. Lo conferma proprio uno di quei giovani cinefili, Jean-Luc Godard. Il cinema di qualità, come veniva definito, era fatto di film che ormai non avevano più senso, che puzzavano di vecchio, che non rispecchiavano più l'anima profonda del paese, le giovani generazioni, la mia generazione. Come prima cosa cominciamo a dirlo. Il resto venne di conseguenza. In pratica, mentre la Francia ufficialmente va verso una politica e una società conservatrice, i giovani intellettuali cominciano a provare insofferenza per questa situazione pesante e conformista. I cinefili parigini ne sono un esempio. I più giovani, come Jean-Luc Godard, detestano il cinema impettito che si fa a casa propria. Sono innamorati del cinema americano, di registi come Hitchcock, come Hawks, come John Ford. Andiamo a casa, Debbie. Questi giovani ragazzi, Godard in testa, si radunano a Parigi intorno a un intellettuale brillante e lucido, rivoluzionario e acuto. Si chiama André Bazin. Nel 1951 Bazin fonda una rivista storica e fondamentale per il cinema contemporaneo, Le Cahier du Cinéma. In Francia negli anni precedenti non ci sono casi importanti di riviste di cinema degne di nota. Bazin, critico cinematografico tra i più noti e influenti al mondo, segue l'intuizione di una critica che parli di cinema come di un'arte viva, concreta, reale. Così, raccogliendo i cocci di una precedente rivista di cinema, la Revue du Cinéma, e riunendo i membri di due circoli cinematografici parigini, crea un periodico di critica cinematografica destinato a lasciare il segno. Tra i giovani critici che aderiscono con gioia e spontaneità al progetto di questa nuova rivista c'è anche il nostro primo personaggio di oggi, futuro regista e di fatto figlio adottivo di Bazin. Il suo nome è François Truffaut. Bazin è semplicemente l'uomo a cui devo tutto ciò che di più felice è arrivato nella mia vita. Sono proprio parole di François Truffaut, parole con le quali il grande cineasta francese parla del suo maestro e mentore. La felicità che Truffaut cita non è un elemento molto presente nella sua infanzia. Nasce a Parigi il 6 febbraio 1932. La madre si chiama Jeanine de Montferrand, all'epoca appena diciottenne. Il padre è Roland Truffaut, un architetto decoratore. In realtà Roland non è il padre biologico di François, semplicemente lo riconosce come suo figlio per amore di Jeanine. François Truffaut scoprirà la verità solo nel 1945, leggendo il diario del patrigno. Scoprirà l'identità del suo vero padre solo 20 anni dopo, grazie a un investigatore privato, ma non riallaccerà mai i contatti. La madre Jeanine, in ogni caso, proveniente da una famiglia aristocratica in decadenza, rimane incinta accidentalmente. È bella, formosa, ribelle, in aperto contrasto con una famiglia, la sua, ancora molto sensibile, come tutti i nobili, ai giudizi altrui. Per cui, quando comunica ai suoi genitori che vorrebbe abortire, questi glielo impediscono. Madeleine Morgenstern, che sarà poi la moglie di François Truffaut, racconta così questi anni. I nonni materni di François erano molto conservatori. Come si faceva con le ragazze madri nella buona società, Jeanine viene internata in una sorta di convitto per traviate. Subito dopo la nascita, François è spedito in campagna dalla nonna. La madre non lo vedrà per 5 anni, con le conseguenze che si possono immaginare. Dopo questi 5 anni trascorsi con i nonni, François finalmente si trasferisce a vivere con sua mamma, che nel frattempo si è sposata con Roland Truffaut. Mia madre era acida. Sicuramente avrebbe preferito una vita più brillante. Inoltre io non ero sportivo come lei e cominciai a interessarmi al cinema molto presto. A casa mia era uno scandalo non amare il campeggio. Mia madre poi non sopportava i rumori e mi impediva di muovermi e di parlare per ore. Allora io leggevo. Era la sola occupazione a cui potessi dedicarmi senza disturbarla. La difficile situazione in famiglia si riflette per Truffaut a scuola. Dalla metà degli anni 40, François viene espulso regolarmente dai vari istituti cui mette piede e conseguentemente castigato e punito dai suoi genitori. Sono inoltre gli anni dell'occupazione tedesca. In questi anni, insieme all'inseparabile amico di scuola Robert Lachenais, con cui condivide la passione per il cinema e per la letteratura, Truffaut è protagonista di diversi episodi di microdelinquenze. Fa piccoli furti e vende il bottino al mercato nero. Sono anni difficili, insomma, che lasciano nel cuore e nella mente del futuro critico e regista un'idea profondamente negativa dell'infanzia. Scendevo in strada per gettare nella spazzatura i pezzi di un piatto che avevo appena rotto lavandolo e la sera stessa sentivo gli amici dei miei genitori che si divertivano a raccontare che avevano fracassato la macchina contro un albero. Nonostante gli anni passati, non ho cambiato idea su questo punto e quando sento un adulto rimpiangere i tempi della sua infanzia, tendo a credere che abbia una pessima memoria. Sempre in questi anni, François Truffaut scopre il cinema. Scopre il gusto di essere spettatore, di perdersi nel buio della sala e nelle pieghe di una storia. Insieme alla Chenet diventa un cinefilo onnivoro, sfugge alle durezze della vita richiudendosi in sala. Nel 1947, quando ha solo 15 anni, il cinema causa la separazione definitiva dai genitori. Insieme all'inseparabile amico, Truffaut dà vita al Cercle Cinéman, un cineclub che riesce ad alimentare solo grazie a furtarelli e piccoli debiti. Quando il patrigno lo scopre, scatta addirittura la denuncia. François viene rinchiuso per 2 anni in un istituto di correzione per minori. Quando esce, François Truffaut si imbatte in André Bazin, nel cineclub che il critico gestisce a Parigi. Bazin si appassiona subito a questo giovane paradossale. È uno scapestrato, un teppista, ma al tempo stesso un fine intenditore di letteratura e film. Lo porta a casa e lo presenta alla moglie Jeannette. Cerca di indirizzarlo verso la prospettiva migliore, di valorizzare il suo amore per i film. Insomma, gli fa da padre, arrivando addirittura a tirarlo fuori di galera quando François ci finisce per diserzione al servizio di leva. Tra me e Bazin si era creato un rapporto speciale. Posso dire che era diventato una sorta di secondo padre, di padre speciale. Era molto importante per me. Così, quando Bazin fonda i Cahiers du Cinéma, Truffaut, insieme a Godard, Romère, Malle, Chabrol, vi confluisce. Si innamora soprattutto del cinema americano e di alcuni autori in particolare. Voi americani amate Hitchcock perché filma scene d'amore come se fossero omicidi. Io amo Hitchcock perché filma gli omicidi come fossero scene d'amore. Questa è una sua frase celebre pronunciata decine d'anni dopo su Alfred Hitchcock, uno dei cineasti più amati da Truffaut, che attraverso le pagine dei Cahiers contribuisce in maniera decisiva a far conoscere in Europa. In ogni caso, a metà degli anni 50, Truffaut viene di fatto adottato da Bazin e consacra la propria esistenza al cinema. Non solo in veste di critico, però. La particolarità della Nouvelle Vague è che questi giovani intraprendenti, appassionati di cinema, desiderino in realtà mettersi dietro la macchina da presa e cimentarsi direttamente, in prima persona, con il racconto per immagini. Amano il cinema americano di Hitchcock, di Hawks, di Ford, ma desiderano fare un cinema completamente diverso, libero, giovane, personale. Vogliono che le loro opere, in maniera fresca, parlino delle proprie vite, delle proprie emozioni. Così Truffaut, incoraggiato da Bazin, gira qualche cortometraggio e raccoglie ottimi consensi. Grazie all'intercessione di Bazin e ai suoi contatti, per Truffaut arriva l'occasione di girare il primo lungometraggio, I 400 colpi. In I 400 colpi, Truffaut racconta la storia di Antoine Doinel, un bambino che vive con la giovane madre e il patrigno. Ha poca voglia di studiare, ama il cinema, marina la scuola, compie piccoli furti, distante da una famiglia egoista e indifferente. Evidente il legame autobiografico in un'opera emozionante e struggente che acquista ancora più spessore perché è dedicata ad André Bazin. Il mentore di Truffaut, infatti, muore a soli 40 anni la sera dell'inizio delle riprese. Siamo a Cannes, laddove avevamo aperto la nostra storia. Truffaut ha appena presentato il suo film che, insieme a Fino all'ultimo respiro dell'amico Godard, ha riscosso un successo enorme e imposto una nuova visione del cinema e del mondo. Ora il successo di un'opera così personale dipende soprattutto da un fattore. Nel momento in cui un regista racconta la vicenda di un alter ego, è fondamentale il volto dell'attore che egli metterà in un ruolo così delicato. Nel caso di Truffaut si rivelerà una scelta determinante. Un giovanissimo attore incrocerà il proprio destino con quello del regista e le due carriere cambieranno per sempre. Nel 1959 a Cannes, François Truffaut presenta il suo primo grande film, I 400 colpi. Insieme a Fino all'ultimo respiro di Godard, il film ottiene un enorme successo sulla Croisette. I 400 colpi ha come personaggio protagonista Antoine Doinel, un 13enne disadattato attraverso cui Truffaut descrive se stesso e la propria adolescenza complessa. Sarà un personaggio longevo, cui Truffaut dedicherà nell'alveo della sua carriera ben 5 film, che descriveranno altrettante tappe del proprio percorso di crescita. È un modo per mettersi in gioco, in discussione, per mettere se stesso in prima persona nell'arte. Per fare ciò, Truffaut ha bisogno di un attore che interpreti il suo alter ego, il volto giusto per Antoine Doinel. Questo feeling particolare si crea con un giovanissimo attore che nel 1959 ha solo 15 anni. Il suo nome è Jean-Pierre Léaud. Jean-Pierre Léaud. Per i 400 colpi cercavo un ragazzino che non fosse costretto dai genitori a recitare, bensì fosse in qualche modo un volontario. Questo avrebbe reso certamente più facili le cose. Ho avuto molta fortuna di incontrare Jean-Pierre. Jean-Pierre Léaud è figlio d'arte. Sua madre, infatti, è Jacqueline Pierrot, attrice francese esplosa nei primi anni 40, che reciterà anche in Italia, con Totò prima e Mario Bava poi in I tre volti della paura. Pronto. Perché ti sei messa la vestaglia? Dovevi restare com'eri. Mi piace di più quando non hai niente addosso. E così voglio trovarti quando verrò. Perché verrò anche se hai sprangato la porta. Ma chi è? Che cosa vuole da me? Te l'ho detto. Voglio ucciderti. Il padre di Léaud, Pierre, è uno sceneggiatore e un assistente alla regia. Il giovane Jean-Pierre mette in mostra da subito grande interesse verso la recitazione. Già a 10 anni avevo capito cosa volessi fare. Intendevo seguire le orme di mia mamma. Così, grazie ai contatti dei miei genitori, a 14 anni ho fatto una comparsa nel film Agli ordini del re, di Georges Lampen. Poi è arrivata l'occasione con François Truffaut. Truffaut visiona ed esamina durante lunghissimi provini numerosi candidati al ruolo. Ma Léaud gli sembra subito la scelta migliore. Ho saputo che stava cercando un tipo strafottente e quindi sono andato. Grazie a provini affrontati con questa straordinaria guasconeria e con brillante spavalderia, Léaud si aggiudica la parte. Il vostro amico Duanel aveva tutto il diritto di scegliere come tema la morte del nonno. Sappiamo bene che non esita a far fuori i parenti quando gli serve. Non è vero, non ho copiato. Ah, come no? A un tratto il moribondo si rizzò sui pugni, lanciò ai figli spaventati uno sguardo che li colpì come un fulmine. I capelli gli ondeggiarono sulla nuca, le rughe si incisero, si rianimò tutto come una fiamma. Un soffio sfiorò il suo viso e lo rese sublime, mentre col braccio teso e tremante egli lanciò con voce acuta il grido di Archimede, Eureka! Ebbene, anch'io ho trovato, Duanel. Sei un ignobile plagiario. Non è vero, signore. Va subito a portare questo tema al direttore. Vieni, Colombel, accompagnalo tu. Il film è girato con un budget ridicolo per l'epoca. È una delle caratteristiche che determinerà il successo della Nouvelle Vague, come conferma Serge Toubiana, critico francese. Uno degli elementi di maggior successo della Nouvelle Vague è che i film indubbiamente costavano poco e rendevano bene al botteghino. Era cinema d'arte che riusciva però a tenere d'occhio gli aspetti economici. I 400 colpi traduce questa economia di mezzi in una leggerezza di tocco straordinaria. Il film è lieve, fluido, poetico. È una sorta di confessione, di sfogo malinconico e commosso. Un atto d'accusa all'insensibilità degli adulti verso i più giovani e della mancata assunzione di responsabilità nei loro confronti. Sopra ogni altra cosa, però, l'elemento che rende davvero straordinario i 400 colpi è la sintonia che si crea tra Truffaut e il suo protagonista. È una strana alchimia che si crea ogni tanto nel cinema e nelle arti figurative. Un artista trasferisce su un modello, su un corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, talvolta le proprie ossessioni. Nel volto profondo, nello sguardo scaltro, nel sorriso triste di Jean-Pierre Léaud, Truffaut trova il materiale grezzo perfetto per rappresentare se stesso. E così il personaggio di Antoine Duanel è destinato ad avere lunga vita. Diciamo che già sul set di I 400 colpi avevo come l'impressione di essere Antoine Duanel. Era più di un personaggio, era una seconda pelle. La grandissima sintonia con François, inoltre, mi ha aiutato molto. Era come se stessi vivendo una parte della sua vita attraverso il personaggio di Antoine. E così è, infatti. C'è un'altra figura che influisce profondamente sullo spessore di un film come I 400 colpi. Si tratta di Roberto Rossellini, che aveva stretto amicizia con Truffaut negli anni in cui quest'ultimo era un critico dei Cahiers. Rossellini legge la sceneggiatura del film di Truffaut e dà consigli precisi al giovane cineasta proprio sul personaggio di Léaud. Così Truffaut ricordava Rossellini qualche anno dopo l'uscita del film. Roberto Rossellini è, con André Bazin, l'uomo più intelligente che ho conosciuto. Egli comprende e assimila in fretta così tante cose che a cercare di stargli dietro ti lascia senza fiato. Ma bisogna sforzarsi, perché si può progredire solo correndo nella sua scia. André Bazin, di fatto un padre per François Truffaut, da tempo malato di leucemia, muore all'inizio delle riprese. Truffaut è distrutto, ma porta avanti il film per dedicarlo al grande amico scomparso. Il film arriva così a Cannes e nella selezione ufficiale rappresenta la Francia nel Festival di Casa, frutto delle pressioni dei Cahiers du Cinéma e dei suoi giovani turchi, così venivano chiamati i critici arrabbiati che scrivevano su quella rivista. ottiene un successo clamoroso, bissato da quello che ottiene fino all'ultimo respiro di Godard in una saletta più piccola, in una sezione collaterale. Nasce ufficialmente la Nouvelle Vague, nasce il sodalizio tra Truffaut e Léo. Le loro carriere e le loro vite cambiano per sempre. Il primo film di François Truffaut, I 400 colpi, ottiene a Cannes nel 1959 uno straordinario successo. Il film sancisce la nascita di un eccezionale sodalizio artistico, quello tra il regista francese e il giovane attore Jean-Pierre Léaud, che nel film interpreta Antoine Doinel, alter ego di Truffaut destinato ad avere lunga vita. Antoine Doinel. Il personaggio di Doinel, infatti, ritorna altre quattro volte. Nel 1962 è il personaggio principale di Antoine e Colette, un episodio del film L'amore a vent'anni. Poi arrivano Baci rubati, nel 1968. Non drammatizziamo, è solo questione di corna, nel 1970. L'amore fugge, nel 1978. Non sono stato molto precoce in amore, ma una volta congedato mi sono messo a recuperare il ritardo come se volessi imitare gli adulti. E poi avevo tanto bisogno di rassicurarmi. Nell'arco di vent'anni Léo cresce, matura e invecchia. E il suo personaggio con lui. Truffaut si rappresenta nei momenti chiave della sua vita. È un binomio unico in tutta la storia del cinema, come riconosce lo stesso regista francese. Inizialmente non avevo previsto un altro film con Doinel protagonista. Non so, mi sembrava di approfittare del successo dei 400 colpi. Mi sembrava una cosa volgare. Poi si è presentata l'occasione e ho capito che Antoine Doinel poteva essere una sorta di elemento costante del mio cinema, il mio vero alter ego. La carriera di Léo decolla, diventa l'attore simbolo della Nouvelle Vague e viene usato anche da registi come Romer, Godard, Malle. Il suo volto, la sua recitazione frenetica, nervosa, spontanea, è l'emblema stesso del nuovo modo di fare cinema, non solo in Francia. Ad esempio, quando un cineasta come Glauber Rocha in Brasile getta le basi per un'avanguardia sudamericana, il cinema novo, chiama proprio Léo per un suo film, come fosse l'essenza di un cinema di rottura che rompe le convenzioni e le regole. Nel 1971 Bernardo Bertolucci chiama Léo per una parte nel controverso Ultimo Tango a Parigi. Léo recita nello stesso film del grande Marlon Brando. No, sta zitta, non dire niente. Io non voglio sapere come ti chiami. Tu non hai nome, io nemmeno, nessun nome. Qua dentro non ci sono nomi, non esistono nomi, capito? I due recitano nello stesso film, calcano lo stesso set, ma non si incontrano mai. Il motivo è curioso. Léo ha un rispetto tale per il grande divo americano, per il suo gigantismo da actor studio, che evita accuratamente di capitare sul set quando c'è Brando. I due non hanno scene insieme e questo permette a Léo di nascondersi dal divo. Due mondi diversi che si incontrano e si sfiorano. Léo è anche molto attivo politicamente, schierato in prima linea, come tutti gli esponenti della Nouvelle Vague, a difesa della cultura nel 1968. In particolare, Léo guida il movimento di rivolta quando viene rimosso dalla Cinémathèque di Parigi Henri Langlois, storico direttore del prestigioso centro di studi cinematografici francese. Non lasciamoli fare! La libertà non si riceve! Si prende! Tutti coloro che amano il cinema, in Francia e nel mondo, sono con noi! Naturalmente al suo fianco in questa battaglia c'è anche l'amico Truffaut. La carriera del regista francese, dopo il successo dei 400 colpi, decolla. Diventa presto uno dei registi più importanti del mondo, amato in ogni angolo della terra. Rispetto ad altri colleghi della Nouvelle Vague, come Godard ad esempio, Truffaut fa un cinema più immediato, meno intellettualistico, più accessibile. E arrivano indimenticabili capolavori come Jules Le Jim, come La Camera Verde, L'Ultimo Metrò, La Signora della Porta Accanto. Hai un gran bel bambino, Bernard. Ti somiglia. Devi esserne contento. Sì, sono felice. Anzi, lo sono stato fino al giorno che sei arrivata. Allora dobbiamo parlarne, Bernard. È necessario. Truffaut ama moltissimo il cinema americano. Celebre il suo amore per Hitchcock, cui nel 1980, poco prima della morte del maestro del brivido, dedica un appassionato discorso in occasione della consegna di un premio. Voi americani lo chiamate Hitch. Io lo chiamo Monsieur Hitchcock. Purtroppo è una delle ultime apparizioni pubbliche di Truffaut. L'anno successivo gli viene diagnosticato un tumore al cervello. Il 21 ottobre 1984 il regista francese si spegne. Il mondo del cinema piange uno dei suoi più straordinari interpreti. Léo si chiude in un doloroso silenzio. Insieme a Truffaut muore anche Antoine Doinel, il suo alter ego, a cui Léo aveva prestato il corpo e il volto. È scappato Doinel! Pochi mesi prima della morte, Truffaut rilascia un'intervista. In essa ci lascia il testamento spirituale più bello che ci si potesse aspettare. È bello ricordarlo così. Ho mangiato quasi tutti i giorni. Ho dormito quasi tutte le notti. Secondo me ho lavorato troppo. Non ho avuto abbastanza soddisfazioni né gioie. La guerra mi ha lasciato indifferente e lo stesso vale per i cretini che la facevano. Amo le arti e in particolare il cinema. Ritengo che il lavoro sia una necessità come l'evacuazione degli escrementi e che chiunque ami il suo lavoro non sappia vivere. 3 film al giorno, 3 libri alla settimana, dei dischi di grande musica basteranno a fare la mia felicità fino alla morte, che un giorno dovrà pure arrivare e che egoisticamente io temo. I miei genitori sono per me soltanto degli esseri umani. È solo il caso che fa di loro mio padre e mia madre. È per questo che per me non sono che degli estranei. Ecco, tutta la mia avventura. Non è né allegra né triste. È la vita. Non fisso a lungo il cielo perché quando i miei occhi ritornano al suolo, il mondo mi sembra orribile.